9 in punto. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, botte da Orbi come in Altrimenti ci arrabbiamo con Bud Spencer e Terence Hill, botte da Orbi in questo caso soprattutto per il Movimento 5 Stelle, ma anche sinceramente un po' per tutti, visti quanti elettori sono andati alle urne, alto tasso di astensionismo come ben sapete, ormai a Roma, ormai insomma il titolo è a Roma ha votato un elettore su due. Certo, l'altra volta nel 2008 c'erano anche le politiche, per carità, e questo sicuramente ha inciso, e però è un risultato di cui tener conto. Vi stiamo chiedendo oggi soprattutto, la domanda che vi stiamo facendo soprattutto sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9inpuntoradio24, se volete potete scrivermi anche su Twitter Simone Spezia, la domanda che vi stiamo facendo riguarda soprattutto il Movimento 5 Stelle, insomma capire come mai ci sia stata questa debacle. C'è già chi ci sta scrivendo, Umberto Borrelli, secondo me Grillo ha pagato l'arroganza dimostrata nello sbattere la porta in faccia a tutti in un momento nel quale l'esecutivo era necessario come l'aria. Pierluigi Corradi dice il 13% è il potenziale dei 5 Stelle che ci si attendeva alle politiche, l'incremento del 10% riguarda una massa di elettori fruttuante che oggi per paura di Alemanno si è rifugiata in Marino. E però attenzione Pierluigi che non stiamo parlando solamente di Roma, parleremo naturalmente anche di Roma, però non stiamo parlando solamente di Roma. Oggi un bel pezzo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera nota, fa un'analisi che riguarda soprattutto la Lega, che non ha raggiunto il 10% praticamente in nessun posto in questa tornata di amministrative, ma riguarda naturalmente anche il 5 Stelle, che alle politiche a Treviso aveva preso circa il 23%, percentuali che si sono andate a sgonfiare in questa tornata di amministrative. Pier Giorgio Corbetta, docente di metodologia della ricerca sociale dell'Università di Bologna, da molti anni tra gli animatori dell'Istituto Cattaneo, autore di un libro proprio sugli elettori di Grillo, insieme a Elisabetta Gualmini. Buongiorno Corbetta. Buongiorno a lei e ai vostri ascoltatori. E saluto Alfio Marchini, a questo punto ex candidato sindaco a Roma. Buongiorno. Buongiorno. Un outsider che è riuscito comunque a guadagnare circa un 10% di preferenze a Roma. Son voti sottratti al 5 Stelle, secondo lei, Marchini? Guardi, questo non so, lo stiamo valutando. Sicuramente è straordinariamente positivo. Se lei pensa che noi abbiamo lanciato il nostro logo il 14 febbraio, quindi ci abbiamo messo marzo, aprile, maggio, in 3 mesi riuscire in una città come Roma, storicamente bipolare, in più con una realtà come 5 Stelle, comunque fortemente radicata. Noi quando abbiamo iniziato, diciamo, 5 Stelle l'altro stava in grandissima crescita, essere riusciti a fare questo risultato, devo dire sinceramente, è stato abbastanza temerario quello che ho fatto, grazie a Dio è andato bene, poteva essere una roba disastrosa, invece è la dimostrazione, vede, che io ho sentito parlare molto in queste ore di politica, di disaffezione, io sono esattamente della idea opposta, se noi abbiamo fatto una campagna non urlata, non strillata, mettendo al centro solamente amore per la città e speranza, con delle proposte sempre molto concrete, pratiche e pragmatiche, e noi abbiamo visto proprio un andamento crescente con la popolarità, con il consenso, cioè ci sono purtroppo Roma molto grande, quindi ci sono ampie fasce di elettorato su 3 milioni che in 3 mesi proprio addirittura neanche conoscevano la proposta, addirittura neanche conoscevano il sottoscritto, magari si ricordavano di mio nonno ma non avevano una conoscenza, però io ho visto che ogni volta dove si è riusciti a entrare nel merito delle persone una risposta, una partecipazione impressionante, cioè io credo che ci sia grandissima voglia di politica in Italia e di partecipazione, questo secondo me è il dato vero. Poi certo ci vuole un tempo perché ciò venga, e credo anche che la reazione è un po' così, sicuramente di crisi che può avere il 5 Stelle, è che il voto a 5 Stelle è stato un voto che denominava, soprattutto al di là della protesta, una voglia di partecipazione, no? E quindi forse lì devono fare una riflessione un po' più. Però devo dire la verità, vedere i dati dell'affluenza, tutta sta voglia di partecipazione, tutta sincerità. Ma perché molto spesso, ad esempio, lei guarda in un altro caso, no? Noi abbiamo fatto, noi solamente ci sta circa un 50%, addirittura, forse 59%, che neanche conosceva che c'era un'ipotesi del genere. Cioè, io ho scoperto che nelle grandissime città, lei tenga conto, per fare capire, che allora votano 3 milioni di persone, 2 milioni e 9, quindi è una cosa enorme. Cioè, una circoscrizione di Roma è grande come Milano, grande come Bologna, diciamo, i numeri sono molto grandi, e ho capito che riuscire a far percolare il messaggio politico fino ai ceti più popolari non è così semplice, ma non creda. Cioè, io non sono tanto convinto. Cioè, credo che ci sia stata una disaffezione enorme rispetto a una forma storica di fare politica, però noi siamo la rappresentazione plastica di chi in 3 mesi ha portato il 10% a Roma, che è una cosa enorme, vuol dire che evidentemente c'è la volontà di partecipare, forse bisogna trovare la formula giusta per coinvolgere le persone. Sì, e c'è anche forse una certa volontà di non votare i cosiddetti vecchi schieramenti. Allora, Pier Giorgio Corbetta, dove sono finiti questi voti del 5 Stelle? Oppure, appunto, un 10% di 10-15% di fluttuanti che nel momento della protesta e quindi delle elezioni politiche sono andati là e poi si sono ritratti di fronte alle performance del 5 Stelle in Parlamento, o ancora, come dicono loro, sono stati i giornali, non ci hanno dato abbastanza spazio, ha detto De Vito, o ancora altre motivazioni, insomma, di altro tipo che magari non riusciamo a leggere. Ma dunque, intanto vorrei un attimo commentare quanto ha appena detto Alfio Marchini. Cioè, secondo me il suo successo indubitabile personale non nasce tanto da una voglia di partecipazione, quanto da una voglia di novità, desiderio di nuovo, desiderio di cambiamento. Per cui ecco che il nuovo che si presenta, già per il solo fatto che è nuovo e che non è appesantito, diciamo, dalle performance precedenti di partiti totalmente screditati, già parte in vantaggio. Il problema è quello di riuscire a confermare al secondo voto questa opzione per il cambiamento. È quello che è successo al Movimento 5 Stelle e che ha portato a questa sua indubitabile sconfitta. Come mai il 5 Stelle ha perso? Ha perso perché ha vinto troppo. Alle politiche il 25% è stato, anzi 25,5%, è stato un successo inaspettato, ma soprattutto un successo in parte legato a quell'opzione politica, ma in parte ci sono state una parte consistente di persone che hanno votato semplicemente perché di fronte ai vecchi partiti, ecco l'elettore che dice: io questi li conosco, questi qui non mi piacciono, diamo credito a questi altri qui, a questi nuovi, vediamo cosa combinano. Il problema è che questo elettorato fluttuante non è lo zoccolo duro del partito, è un voto d'opinione il quale la volta successiva è rimasto deluso, e qui ci si può soffermare su questo problema, deluso dal comportamento del 5 Stelle, visto che il suo voto è stato praticamente dal suo punto di vista di elettore sprecato, perché i 5 Stelle si sono tirati fuori da qualsiasi opzione politica, la seconda volta non l'ha più. Corbetta, ha quel voto, ed è tornato nell'astensione. Corbetta, mi viene in mente un parallelismo con la Lega, che ha subito fortissime fluttuazioni nel corso della sua storia politica. C'è qualcosa, un modo per collegare questi? Sì, si possono collegare, ma proprio per dimostrare la diversità. La Lega aveva un radicamento territoriale fortissimo. Il Movimento 5 Stelle non ha un radicamento ideologico, non ha un radicamento di classe, perché abbiamo visto che votano 5 Stelle, dagli studi che abbiamo fatto, persone di tutti i ceti sociali, è veramente un partito interclassista. Non ha un radicamento territoriale, non ha una tradizione storica, e tutto questo lo rende particolarmente debole sul piano della continuità di voto. Lo zoccolo duro del Movimento 5 Stelle può essere stimato, c'è chi lo stima attorno al 10, attorno al 15%. Oltre è un voto che va e che viene, e l'elettorato è rimasto deluso, ma gli manca al partito. Lo stesso fatto che si dichiari di essere un non partito, lo stesso fatto che dichiari che i suoi uomini politici non sono una classe politica, ma sono dei portavoce di una non meglio identificata voce popolare, tutto questo lo rende debole, lo rende fragile, lo rende fluttuante, aleatorio. La Lega era ben un'altra cosa. Marchini, allora, io so che, insomma, non... Come dire, lei ha deciso per il momento di non dare indicazioni di voto per quanto riguarda il ballottaggio, no? Me lo conferma questo? Confermo che l'analisi, diciamo, concordo in pieno l'analisi che ha fatto Corbetta, assolutamente. Cioè, sicuramente c'è la buona predisposizione verso qualcosa che è nuovo. La cosa nuova è che c'è una predisposizione verso ciò che è nuovo, che non urli, ma che sia anche costruttivo. Io ho sempre detto, la differenza tra lo tsunami che passa e distrugge, una rivoluzione passa e fa dei cambiamenti, però ha ragione Corbetta, cioè bisogna poi riuscire a consolidare e a far crescere questo. Cioè, noi abbiamo visto che mano a mano che passavano i giorni aumentava il consenso. Se la campagna fosse durata settimane di più, avremmo avuto sicuramente una crescita, ma il punto vero è giusto, è come questo lo consolidi. Quindi rispondo alla sua domanda. Cioè, vede, perché io ho fatto questa operazione? L'ho fatta primo perché non ho trovato come cittadino una risposta adeguata nell'offerta dei partiti in campo, nessuno, il Movimento 5 Stelle compreso. Secondo perché credo che ci debba essere finalmente un'operazione nuova, secondo me che deve partire, anche vede, quando si parla di welfare, parliamo anche in termini anche economici, a mio avviso noi ci stiamo nascondendo dietro un dito, si parla del fiscal cliff, di fatto dobbiamo parlare di welfare cliff, cioè nel senso di dire noi nel 2035 coloro i quali avranno la fortuna di andare in pensione andranno con 400 euro al mese, ora vuol dire povertà pura, dobbiamo riflettere come trovare una nuova formula per riorganizzare un sistema sociale integrato e secondo me non può che ripartire dal territorio, perché se non lo fai sul territorio e a maggior ragione in più visto a Roma nei quartieri, cioè su quelle realtà dove è più forte l'appartenenza identitaria e dove puoi riattivare quel sentimento mutualistico, io credo che noi come società occidentale, parlo dell'Italia, avremo dei problemi molto seri. E quindi scusi, voglio dirle, per cui veramente il discorso non è tanto appoggiare chi o come, io ho detto non farò il vice di nessuno, cioè, io ho fatto una scelta di vita per cui i prossimi 15 anni mi occuperò di politica con grande passione, devo dire che mai scelta fu più giusta perché ho avuto dei mesi meravigliosi, però proprio il mio tentativo è quello di fare veramente, io quando dico che le metropoli sono le grandi fabbriche dell'innovazione sociale sono profondamente convinto, cioè dobbiamo riflettere molto a fondo su come coniugare insieme problemi di bilancio, efficienza delle municipalizzate, dramma. Io ho colto nella città un dramma. Guarda che c'è il problema della povertà, è un tema che esiste in modo serio, così come esiste un problema drammatico delle imprese che stanno sull'astrico. Cioè, noi dobbiamo, secondo me, dare delle risposte concrete a un problema sociale, economico, che a mio avviso non può che ripartire. E quindi lei dice, guardiamo quali sono le proposte concrete degli altri due e su quella base valutiamo. Sentiamo. Non è tattica politica, è proprio profondo convincimento quello che dire. Voglio sentire il primo ascoltatore che ci viene proprio da Roma, appunto, ed è Giorgio, buongiorno. Buongiorno, io ho votato per Marchini, ero iscritto al Movimento 5 Stelle dal 2007, ma l'ho trovato veramente deludente, in quanto non c'è democrazia interna, come giustamente ha detto Favia, e praticamente mi sembra un movimento in mano a due pupari, uno che è il megafono che sarebbe Grillo e l'altro il signor Casaleggio che ha degli interessi ben specifici poi. E quindi non ho capito Giorgio, solo per una questione di democrazia interna che comunque è rilevante, per carità, non è che però insomma per quello. Ricorderei che anche Mussolini quando ha iniziato parlava di democrazia interna, che poi abbiamo visto benissimo come andata a finire. Tant'è vero che il fondatore vero del fascismo, perché Mussolini non ha fondato niente, che era Alceste De Ambris, nel 23 gli è toccato andare in esilio in Francia. Grazie Giorgio per il suo intervento e la sua testimonianza. Marchini, detto ciò, così poi la saluto perché poi so che ci deve lasciare, vabbè, ha sentito l'ascoltatore, se vuole può commentare, ma a parte questo le volevo dire, posto che quel suo 10% non è considerabile come suo, perché come ci diceva Corbetta, no, probabilmente fa parte di quell'elettorato fluttuante che in parte finisce nell'astensione, in parte evidentemente finito a votare per lei o magari, come nel caso di Giorgio, è uscito dal Movimento 5 Stelle per votare lei. Secondo lei dove si orienterà questo elettorato? Non le sto, attenzione, non le sto chiedendo di dare un'indicazione di voto. Le chiedo, ha sensazione, dato che le strade della città le ha battute, i suoi potenziali elettori li ha visti e li ha conosciuti, ecco. Ma guardi, io le rispondo così. Io credo che innanzitutto chi ci ha dato questa delega è una delega importante per fare qualcosa di concreto, cioè non è stata una delega solamente di protesta, ma è una delega per di incidere concretamente rispetto al modello che noi abbiamo in mente. No, io ho detto Roma ha bisogno, innanzitutto parlando di Roma, ma anche del nostro paese, di una manutenzione ordinaria e straordinaria di ciò che abbiamo, piuttosto che immaginare costruzione, consumo di suolo zero, cominciamo a fare cose concrete, cioè rimettiamo a posto quello che abbiamo e questo consente anche di fare una grande operazione economica, perché in un'operazione di manutenzione straordinaria ridai ossigeno alle imprese piccole e medie, quindi rimetti in moto una macchina della spesa, cioè degli investimenti della manutenzione, quindi fai un'operazione sociale di ammodernamento, eccetera. Io credo che, torno a dire veramente, il mio compito nelle prossime ore, nelle prossime settimane sarà quello di incidere in modo molto molto molto fermo su questi aspetti. Devo essere sincero, guardi, io il mio scetticismo nasce dal fatto che gli altri partiti hanno una serie di compromessi al loro interno, una serie di frammentazioni, una serie di cambiali da pagare a un voto di scambio che gli ha consentito di avere, di mantenere questi mali risultati, perché è ovvio che in questi momenti si mobilitano di più coloro i quali hanno un vantaggio diretto o indiretto, parlo in modo del tutto lecito, a che vinca il signor Rossi o no, e quindi secondo me non sarà così semplice a mio avviso trovare una piattaforma comune vera sulle cose che vado a fare, quindi io me lo farò con un spirito assolutamente laico, ma sarò su questo punto di vista solamente inflessibile, cioè con la speranza non si scherza, il voto che ci hanno dato a noi è un voto di speranza, io non mi posso permettere minimamente il lusso di tradire la speranza delle persone. E quindi mi scusi solo una cosa, 15 anni in politica ha detto, i prossimi 15? Sì, io adesso poi posso essere 13 e mezzo, 12 o 14, però insomma io ho avuto la fortuna di avere ai vari drammi, adesso posso dirlo così, non c'è nessun motivo elettorale, il primo dei miei 5 figli ha avuto un incidente drammatico anni fa, è stato miracolosamente resuscitato, quindi è tornato perfetto come prima, meraviglioso come prima, e credo che ognuno di noi in un momento genere debba restituire alla vita quello che la vita ti ha regalato gratuitamente, quindi penso che sia questo in questo momento la cosa migliore, aiutare. Noi ovviamente abbiamo dato da lavoro a migliaia di persone in Italia e in giro per il mondo, ma penso che in questo momento stare nella politica dando un contributo concreto, non demagogico, sia il miglior servizio che posso fare al mio paese e alla mia città. Grazie Marchini, la possiamo chiamare Arfio perché ormai in rete è un nome, un mito. Grazie. Grazie Marchini, buona giornata. 9 in punto. Saluto intanto Virman Cusenza, direttore del Messaggero, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto però vorrei riprendere Pier Giorgio Corbetta proprio su quello che ci diceva poco fa Marchini. Che cosa voleva dire Corbetta? Va bene, d'accordo. Pronto? D'accordo, adesso. No, è al telefono da un'altra parte. Corbetta, che scherzi ci fai? È al telefono da un'altra parte. Ecco, adesso ci sono. Sì. Prego. Cosa voleva dire su Marchini? Ah no, io volevo dire su Marchini questo, volevo dire che Marchini dice non do indicazioni su come orientarsi al voto, ma secondo me agli effetti della dinamica democratica il meccanismo elettorale, questo del doppio turno, prevede una alleanza al secondo turno, proprio indirizza in quel modo. Io credo che sia un ulteriore elemento di disorientamento e di eventuale disaffezione da parte dell'elettorato che hanno scelto un partito, se poi al secondo turno non hanno delle indicazioni, non hanno questo non è di tenere l'elettorato in poche considerazioni e di dire se non vi dico io come votare, voi non siete capaci di, e quindi vi do le indicazioni. Però io credo sia inevitabile in un sistema diciamo a doppio turno, inevitabile che i perdenti facciano un atto di umiltà e al secondo turno si alleino, magari concordando appunto questa alleanza. Lo so, però come ha visto Corbetta, ormai si sta, da questo punto di vista si sta sfasciando tutto. Anche De Vito ieri ha detto vado nella cabina elettorale e mi avvarrò, testuale, mi avvarrò della facoltà di non votare, testuali parole. Allora Virman Cusenza, innanzitutto una domanda, prima che da direttore del quotidiano più diffuso a Roma, da direttore di un grande quotidiano, e la domanda è: come leggi questo voto? Ma credo che lo si possa fare in tanti modi, ma ce n'è uno soprattutto che deve puntare su questo fenomeno astensione, perché è vero che sono stati votati alcuni candidati, insomma, anche se poi la gran parte di loro è andata tutta al ballottaggio, ma è soprattutto vero che il partito maggiore appunto è quello del non voto, cioè una protesta che si è tradotta in appena 3 mesi dall'espressione grillo all'appunto diserzione delle urne. Quindi il modo più tradizionale in realtà di rifiutare la politica è il modo per distaccarsene più chiaro e netto. Non eravamo anche più abituati, diciamo la verità, a fenomeni di astensione così massiccia, e quindi c'è da riflettere su quanto i partiti non abbiano saputo coinvolgere i cittadini, soprattutto in un tipo di elezione che è quella che ha sempre visto in realtà una maggiore vicinanza, proprio perché riguarda il cortile di casa nostra. Questo è il fenomeno più allarmante. Io se fossi nei panni dei candidati, in particolare ovviamente quelli di Roma, ma anche gli altri, oltre che cercare i voti degli altri candidati sconfitti al primo turno, andrei soprattutto a vedere perché e come eventualmente mi possono votare coloro che invece hanno, ripeto, disertato le urne al primo turno. Questo mi pare il dato più significativo, insomma, da cui partire. Poi il resto è un po', se vogliamo, una bega locale per certi versi. Per certi versi lo è anche una bega nazionale, trattandosi della capitale, no? Naturalmente. Certo. Insomma, a Roma, tra l'altro, l'astensione ha raggiunto livelli enormi, insomma, tanto che ci ritroviamo con il candidato sindaco che è uscito vincente al primo turno, che di fatto è stato votato. Poi, per carità, chi non va a votare prende anche una decisione e lascia nelle mani degli altri le decisioni, nella sostanza. Però è vero che alla fine Marino è stato votato dal 20% degli aventi diritto e Alemanno dal 15%. Anche da questo punto di vista un filo di preoccupazione c'è, no? No, ma infatti appunto per quello dicevo bega locale, nel senso che poi ci sono ovviamente le dinamiche che fanno parte, sì, insomma, come dire, del territorio, e questo è normale. No, quello che invece, ripeto, sottolineavo e mi pare il dato più significativo è questo dell'astensione, soprattutto perché io ho fatto una battuta, però oggettivamente non è neanche tanto battuta, ci ha votato mezza Roma, speriamo di non avere mezzo sindaco, nel senso che oggettivamente il problema è che poi chi ci va a rappresentare in Campidoglio rischia di essere appunto dimezzato, tra virgolette, nel senso di essere pienamente legittimato dal voto, per carità, ma dimezzato nel senso di una rappresentanza molto parziale della città e dei suoi problemi. Quindi questo è da evitare, secondo me, comunque la si pensi, bisognerebbe lavorare, anche noi in questo senso come giornale della città lo faremo, perché ci sia una partecipazione maggiore, più piena, più larga, poi scelgono come vogliono, però quello che è importante è che almeno i cittadini siano consapevoli delle ricette che hanno i diversi candidati e anche soprattutto dei problemi che aspettano una soluzione, insomma. Sì, sarebbe bello, mi viene da dire, se i candidati sconfitti, insomma, quelli che non sono andati al ballottaggio, non solo a Roma ma in tutte le città, facessero una bella battaglia per portare più gente possibile a votare, ma tanto so che non avverrà. Saluto anche Bruno Valentini, che andrà al ballottaggio ed è il candidato sindaco a Siena per il Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Vicenda interessante quella di Siena per i due aspetti. Innanzitutto perché negli ultimi 20 anni è la prima volta che si va al ballottaggio a Siena, perché di solito il candidato del PD, prima DS, PDS, insomma, tutto quello che sappiamo, passava al primo turno in in ampia serenità. Interessante anche perché però ci si aspettava che il Movimento 5 Stelle avrebbe fatto il botto dopo la vicenda del Monte dei Paschi e invece si sono fermati intorno ad un 8,5%. Ci sono i due aspetti che contano, ma prima di sentire lei voglio sentire qualche altro ascoltatore. Inizierei da Marcello dalla provincia di Livorno, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Senta, io vorrei dire che più che sconfitta di Beppe Grillo, trattasi di sconfitta dei grillini. Cioè Beppe Grillo dovrebbe clonarsi per poter arrivare, rimanere a certi livelli di percentuale nell'elettorato. I grillini appena sono apparsi sulla scena politica, davanti all'opinione pubblica, hanno mostrato tutte le loro debolezze, la loro impreparazione, tant'è che Grillo spesso è dovuto andare a Roma a richiamarli. Cioè questa, davanti all'opinione pubblica, si fa velocemente andare cioè un partito che non è strutturato come il Movimento 5 Stelle, andare dalle stelle alle stalle. Basta una minima, cioè farsi vedere non così coerenti, così forti, così decisi, impreparati soprattutto. Grazie Marcello, sentiamo anche Salvatore della provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, la prima considerazione riguarda la democrazia, è un concetto quantitativo, credo, cioè non è che più gente ha il voto allora è maggiore democrazia. Se vogliamo allinearci in Europa cominciamo a avere delle percentuali di partecipazione al voto europee. La seconda considerazione riguarda il sistema partitico, che in Europa c'è, in Germania c'è la CDU, l'SPD, in Gran Bretagna ci sono i laburisti, i liberali, i conservatori, e in Italia ancora non c'è. È 20 anni che non si è strutturato un sistema partitico. La terza considerazione riguarda la legge elettorale. Siamo riusciti a fare 5 leggi elettorali diverse, per cui alle europee c'è un proporzionale, alle amministrative c'è un secondo turno, poi alle politiche adesso forse c'è il Porcellum, prima c'era il Mattarellum. Quindi questo vuol dire un sistema che non c'è. E da questo sistema può uscire fuori di tutto. Sì, è come un cilindro. Adesso è uscito il coniglio Grillo, prima Ferratini, poi Di Pietro. Sì, senza contare a proposito delle leggi elettorali, di quello che uno si trova nell'urna o nella cabina, insomma, il bambinello che si sono trovati di fronte ai romani quando sono andati a votare, insomma, mi pare una scheda di 1,20 m circa. Allora, Bruno Valentini, le chiedo una riflessione anche a partire da quello che ci diceva l'ascoltatore poco fa, insomma. L'impressione è che la capacità di incidere di Grillo si perda poi a livello locale, come dimostra probabilmente in parte anche il vostro caso. Poi veniamo a questo calo netto di voti, che comunque la vede insomma in maggioranza al momento con Rifondazione, il candidato della sinistra, la candidata della sinistra che ha un 10%, quindi in tutta teoria insomma, il ballottaggio dovreste vincerlo, però insomma le chiedo innanzitutto una riflessione su questo. Dunque, il risultato che ho avuto, che è circa il 40%, si è sviluppato in una situazione che è sicuramente condizionata dal trend negativo del PD a livello nazionale e dal fatto che oltre al disastro del Monte dei Paschi, qui c'è stata anche la caduta della vecchia maggioranza, per cui noi usciamo dalla gestione commissariale di un anno intero. Lei è un renziano, no Valentini? Assolutamente sì, infatti Matteo Renzi è venuto insieme a me nelle ultime giorni della campagna elettorale. Io sono però anche un sindaco, perché fino a un mese fa ero sindaco del mio comune, che poi è il comune più vicino alla città di Siena. Quindi ho giocato qui tutta la carta della credibilità e dell'affidabilità. E il ragionamento che abbiamo fatto noi siamo consapevoli della crisi del PD, che è convalescente. Intanto da noi il PD ha perso circa 5.000 voti e io sono il candidato di un arco di centrosinistra più largo del PD, che ha una lista civica e porta il mio nome, che è diventato il secondo partito dopo il PD. Però questo risultato segna anche la grande sconfitta della deriva del grillismo, che io sono bravo a fare le domande ma non so fare le risposte. E questo è il grande problema. Anche durante i dibattiti elettorali il candidato di Beppe Grillo non faceva altro che parlare di casta, di partitocrazia, di città distrutta, senza vedere invece le leve che noi abbiamo da mettere in atto. E quindi a un certo punto, quando ti sai solo elencare i problemi ma non sai portare le ricette, le persone dicono: ma chi mi devo affidare? E su questo poi si sta giocando la differenza. Il PD o il centro-sinistra della periferia è meglio di quello romano, perché qua noi siamo abituati da anni, da sindaco, da amministratore, da uomo politico della mia popolazione, insomma, che è in contatto con le persone, a confrontarsi tutti i giorni con chi non ha una casa, con chi deve aprire un'attività commerciale, chi vuole un permesso urbanistico, chi vuole semplicemente fare la devalina scuolabus a casa. E su questo la nostra generazione, la nostra classe, anzi gli amministratori, è migliore di quella, sia di Grillo ma anche del centrodestra, perché il PDL è un partito personale. Berlusconi potrà anche vincere le elezioni, ma non le vincerà quasi mai a livello locale. Sì, stiamo stiamo allargando un po', perché le volevo chiedere in particolare su questo tema del Movimento 5 Stelle. 9 in punto. Un altro ospite che però è lo stesso di prima, nel senso che Alfio Marchini, che voleva in realtà replicare a Corbetta quello che ha sentito da Corbetta prima. Bentornato, Pronto? No, non c'è. È ricaduto, evidentemente è ricaduto. Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo gridare un motivo di rabbia nei confronti dei grillini. Io sempre ho votato per loro e sono arrabbiatissimo perché non hanno trovato un accomodamento quando ci entrarono in Parlamento. Qui l'Italia sta morendo, i negozi chiudono uno appresso all'altro, le imprese uguale, la gente che dorme sopra dentro le macchine, sfratti e quant'altro, e questa gente non si rende conto di quello che sta succedendo. È una vergogna, questo volevo urlare, e lo urlerò fino a che muoio, perché questa è una vergogna. Qui si stanno spartendo alle poltrone, al comune, al che sia, ma non si rendono conto di quello che sta succedendo in Italia. Qui sta morendo veramente, è questo che urlo. Qui c'è una rabbia che non finisce mai, la gente non compra più nulla, non c'ha più soldi. È questo che volevo dire. La ringrazio per avermi chiamato. Grazie Giovanni per il suo intervento. Abbiamo recuperato Alfio Marchini, eccoci Marchini. No, telegrafico, solamente grazie. Curiosità Corbetta, no, io è esattamente l'opposto, io non ho solamente detto che a priori non mi schiero, io ho semplicemente detto che mi schiero sulla base dei contenuti veri, cioè la telefonata che abbiamo appena sentito denota una drammaticità nella città e nel paese forte, quindi il problema è che l'adesione deve essere fatta. La differenza dei clienti che dicono io vado e non voto, no, io dico io voglio incidere, cioè la delega che noi abbiamo avuto nei nostri cittadini è per decidere, per cambiare, per riuscire a far ripartire questa città e questo paese. Questo, diciamo, è l'elemento di grande distinzione che c'è. Ovviamente però la scelta viene fatta non sulla base di appartenenza, di una spartizione di ruolo, di poltrone, ma su dei contenuti che sono, secondo me, i contenuti che possono consentire la risoluzione dei problemi che ci sono. Questa è la differenza, per cui non è un non vuole partecipare. Quindi arriverà quando lo dirà, chi votare? Diciamo che abbiamo le elezioni state fatte ieri, per questo vediamo anche un attimo questi giorni, ma insomma, una settimana, ovviamente avremo tutto il tempo per dare la possibilità di fare un approfondimento, però per decidere, per entrare in merito. Se non ci dovesse essere male condizioni, a quel punto uno dice non mi faccio prendere in giro, quindi no, ma faremo di tutto affinché si possa essere determinanti nel cambiare le cose. Insomma, la gente, come abbiamo sentito questo signore che ha appena chiamato, ha bisogno di essere, come dire, supportato con delle scelte concrete, pratiche, rapide. Allora, vorrei tornare, grazie Marchini, buona giornata, speriamo che non debba replicare di nuovo, perché tra 5 minuti circa è finita la trasmissione. Virman Cusenza, direttore, secondo te, adesso naturalmente siamo nel puro campo delle ipotesi, ma c'è una qualche possibilità vera che Alemanno recuperi oppure no, come dice lui, o ti sembra molto molto difficile? Oggettivamente mi sembra difficile, perché sono praticamente 12 punti, questo è oggettivo. Dopodiché poi i ballottaggi, come sappiamo, hanno la loro storia. È già successo 5 anni fa che Rutelli andasse appunto al ballottaggio con 5 punti di vantaggio, sappiamo com'è finita. Però stavolta Alemanno è dall'altra parte della barricata, cioè dalla parte di chi è sfidato e non di chi sfida, e sappiamo anche quanto di fatto logorino 5 anni di amministrazione. E quindi da questo punto di vista vedo per lui una partita complicata. D'altro canto anche guardando i bacini potenziali di elettori, c'è da dire che mentre è chiaro dove vorrà andare a pescare col voto, con non voto, comunque sicuramente lì Marino, cioè dai grillini, è altrettanto vero che però non potrà disdegnare l'elettorato di Marchini, mentre invece Alemanno ha come unica chance l'elettorato di Marchini, mi pare di capire. E quindi sarà importantissima questa scelta appunto di Marchini di schierarsi o meno, e soprattutto poi vediamo anche quanto gli elettori sono disposti ad ascoltare le indicazioni di voto, perché anche lì abbiamo visto quanto in realtà ci sia stata una libertà e una, diciamo, perdita di quella famosa fidelizzazione che ci faceva parlare di truffe cammellate, cioè nel momento in cui i partiti decidevano di votare Tizio, Caio, Sempronio, questo accadeva. Oggi non è così, addirittura non vanno manco a votare, quindi da questo punto di vista, diciamo, ecco, l'indicazione di voto secondo me non sarà così incisiva come potrebbe essere, avrebbe potuto essere in altre occasioni, insomma. Certo, perché tra l'altro appunto Marchini nemmeno ha un partito strutturato dietro, ma insomma semplicemente sì, appunto, una sua lista, quindi no, figuriamoci, certo, insomma, no? conterà però, appunto, come dicevi tu, siccome qui ha votato una minoranza a questo primo turno, il 20% degli elettori in assoluto e il 15%, cioè per i primi per Marino e i secondi per Alemanno, cioè oggettivamente poi che la gente sia così motivata da tornare alle urne per votare il candidato indicato da uno dei candidati sconfitti, insomma, francamente è un'operazione complicata. Dopodiché, come ho detto prima, noi invece aiuteremo questo tipo di meccanismo di coinvolgimento, perché ci sembra giusto quantomeno che siano tutti consapevoli dei problemi che si vanno ad affrontare, ecco, questo sicuramente. Massimo dalla provincia di Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per la possibilità di intervenire in trasmissione. Io chiamo da Roma, sono un cittadino romano, anche se originario dell'Abruzzo, che 5 anni fa ha votato il sindaco Alemanno. E ovviamente penso che il primo sconfitto sia lui, e io sono il primo pentito del voto, perché dopo tutto quello che è successo in questi anni a Roma, dall'aumento della criminalità, da un degrado della città che si riscontra in ogni sua parte, in ogni suo quartiere, dalle periferie anche al centro storico, perché in tutti questi anni Roma, perlomeno il centro storico, cioè la sua faccia nei confronti dei turisti o comunque dei cittadini stranieri, era il centro storico. Adesso anche il centro storico è abbandonato a se stesso, e quindi Alemanno secondo me paga questa sua politica che si è caratterizzata per parentopoli o comunque per aver portato... Abbiamo pochi secondi, Massimo, stringa. No, io volevo solo dire questo, ho votato il Movimento 5 Stelle, però non è stato un voto di protesta, perché penso che il 5 Stelle porti delle idee molto, molto interessanti. L'importante, ecco, dalla base di questo risultato inferiore alle attese, quindi non direi una disfatta, di capire quali sono i correttivi da apportare per far crescere questo movimento, che secondo me è molto importante. Grazie anche a Massimo. Io ringrazio tutti quanti, Virman Cusenza, Pier Giorgio Corbetta, Bruno Valentini, Alfio Marchini, chiedo scusa agli ascoltatori che non sono riuscito a far intervenire, grazie ad Anita Panizza e Alessandro Marcotulli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 34 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.